Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Digna Radio è uno spazio radiofonico di approfondimento e analisi sulle notizie che giungono dal Messico che lotta. Ci soffermiamo sui fatti, le lotte e i momenti di autonomia più rilevanti degli ultimi mesi, secondo uno sguardo situato e di parte, ovvero in basso e a sinistra, e pienamente immersi in quel movimento sociale chiamato l'altra campagna. Digna Radio è il veliero della pirata che dal Messico porta messaggi di rivolta, di insubordinazione e di nuovi lidi, liberi e indipendenti. In questa ottava edizione di Digna Radio parliamo di: continua la violenta escalation di aggressioni contro le comunità zapatiste, il ritorno del dinosauro PRI e le lotte che gli resistono, Oaxaca, il caso di Álvaro Sebastián Ramírez e la lotta nella regione d'Ossicia, Guerrero, il contropotere della polizia comunitaria, aggiornamenti sui prigionieri politici. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Continua la violenta escalation di aggressioni contro le comunità zapatiste. 9 agosto 2012, la giunta del buon governo zapatista di Morelia denuncia un'aggressione armata dell'organizzazione regionale dei coltivatori di caffè di Oxingo, Orcao, i quali hanno aperto il fuoco su un gruppo di contadini zapatisti che stavano pascolando le loro vacche. Successivamente, gli aggressori hanno sparso su 2 ettari di pascolo dei pesticidi per impedirne l'utilizzo dalle mandrie dei compagni. 15 agosto 2012, la giunta di buon governo zapatista della Realidad denuncia provocazioni dei partiti Verde e PRD, i cui membri provano ad impossessarsi di un magazzino dei municipi autonomi della zona, spinti dalle promesse di un lucroso progetto del governo su quello spazio. Il tentativo di esproprio viene respinto dai compagni. 7 settembre 2012, attacco armato dei paramilitari contro la comunità zapatista Comandante Abel. Circa 150 aggressori, simpatizzanti del partito PRI e del gruppo Paz y Justicia, sparano contro il villaggio degli zapatisti. I paramilitari saccheggiano e poi occupano circa 11 ettari di terre coltivate dei compagni. Alcuni aggressori vestono uniformi di tipo militare, girano incappucciati e sparano armi di grosso calibro. Nei giorni successivi, la polizia statale, con la scusa di intervenire a pacificare la zona, si posiziona strategicamente per chiudere definitivamente l'assedio al villaggio Comandante Abel. La giunta di buon governo di questa zona farà pubblici 4 comunicati in 2 mesi, specificando le responsabilità politiche dei partiti e del governo statale e confermando altre aggressioni armate, il cui saldo al momento è di 87 persone profughe, in maggioranza donne e bambini, del villaggio Comandante Abel e della vicina comunità Unión Hidalgo. 12 ottobre 2012, giunta del buon governo zapatista di La Realidad denuncia l'arresto di 6 zapatisti nel villaggio Guadalupe Los Altos per una montatura ordita di alcuni dirigenti che hanno istigato l'assemblea del villaggio contro le famiglie delle ZLN perché, in quanto zapatiste, rifiutano di partecipare alle attività promosse dal governo e dai partiti. 18 ottobre 2012, giunta del buon governo zapatista di Oventic denuncia aggressione del PRI a Erchvo, dove le autorità locali, sotto protezione del giudice di zona, mettono i lucchetti ai tubi di una sorgente acquistata dalle ZLN, che fornisce acqua alle famiglie zapatiste della regione, visto che queste, negli anni passati, erano state disconnesse dal servizio municipale di acqua potabile per opera di alcuni funzionari del partito PRD. Lo spazio informativo Digna Radio, nostro malgrado, da un paio d'anni apre con questo tipo di notizie. Aggressioni di ogni tipo ai danni delle comunità autonome delle ZLN. Non bisogna essere degli strateghi militari per capire che tante aggressioni, avvenute in un arco di tempo relativamente breve su tutto il territorio zapatista, sono il prodotto di un piano orchestrato dall'alto. Lo abbiamo denunciato già altre volte. Questo stillicidio di provocazioni, azioni paramilitari, invasione di terreni, arresti mirati e saccheggi di raccolti è la parte visibile di quella che in Messico si definisce guerra contra-insurgente. Infatti, con il riaccomodo delle forze politiche sul territorio chiapaneco per le elezioni del luglio scorso, in cui con imbrogli e compramenti da voti ha vinto la destra più populista e mafiosa, abbiamo assistito a un incremento delle azioni contro gli zapatisti, nemici ovvi di tutti quelli che cercano una poltrona fra le istituzioni. Politici e dirigenti di organizzazioni sociali, filogovernative, ma di partiti diversi, hanno quindi mosso le proprie pedine sullo scacchiere, ognuno con i propri interessi politico-economici specifici, ma tutti promettendo ai propri uomini le terre degli zapatisti. Infatti, le terre dei compagni rioccupate dopo l'insurrezione armata del 1994 non sono riconosciute legalmente dal governo e vengono quindi da questo messe sul tavolo come bottino per chiunque aiuti a sgomberare gli zapatisti da dove sono. L'obiettivo immediato del governo è letteralmente togliere la terra sotto i piedi agli zapatisti ed erodere gli avanzamenti della costruzione della società autonoma. L'obiettivo ultimo è invece sterminare le ZLN con un costo politico più basso possibile. Per distruggere il nemico zapatista, il governo sa che non può contare su un'offensiva militare frontale perché le reazioni in tutto il mondo e la tenace resistenza della guerriglia zapatista manderebbero a frantumi la già fragile immagine della democrazia messicana. Per questo, almeno dall'anno 2000, gli strateghi del governo federale hanno implementato quella che definiamo guerra combinata di sfiancamento, detta dal Pentagono anche guerra di bassa intensità, riferendosi al relativamente basso volume di fuoco. La guerra combinata di sfiancamento è una guerra che sposa diversi elementi in una sola strategia controinsurrezionale. Potremmo suddividere schematicamente queste strategie in sei tattiche centrali. 1. La militarizzazione capillare del territorio. Il Chiapas è dal 1994 teatro di vaste operazioni militari, le quali hanno disseminato in tutta la regione migliaia di uomini in decine di caserme permanenti e campi mobili. Negli ultimi sei anni, l'incremento degli effettivi militari, visibili in tutte le strade del Chiapas, è stato giustificato con la guerra al narcotraffico, utilizzando uno schema economico-militare degli Stati Uniti, già sperimentato in Colombia, con il Plan Colombia, e ribattezzato in Messico Iniziativa Mérida. 2. La riattivazione dei gruppi paramilitari. Dal 1995 in Chiapas sono stati attivati dallo Stato gruppi di civili con funzioni di polizia, armati e preparati dall'esercito stesso. Questi gruppi paramilitari, a fine degli anni 90, sono stati responsabili di centinaia di morti nella regione, oltre che di stupri, sparizioni forzate e sgomberi di interi villaggi. Negli anni successivi, gli operatori di queste mansioni sporche sono stati riassorbiti come funzionari pubblici o come dirigenti dei partiti politici. In alcune regioni, come nella zona nord del Chiapas e nei pressi della tragicamente famosa Acteal, si stanno riattivando questi gruppi. È il caso del gruppo Pasi Justicia, responsabile dell'attacco alla comunità Comandante Abel, e della zona di Chenaló, dove coloro che nel 1997 massacrarono 45 indigeni Acteal, oggi godono nuovamente della libertà, di terre, case e sussidi dati loro dal governo in nome di una improbabile e unilaterale riconciliazione. 3. L'utilizzo di altre organizzazioni contadine in chiave contro insurrezionale. Approfittandosi della povertà e l'assenza di terra sufficiente per molti contadini, i politici innescano conflitti agrari a proposito, a danno degli zapatisti, promettendo la regolarizzazione delle terre eventualmente strappate alle ZLN. Volontariamente o per la pressione politico-sociale, varie organizzazioni contadine, alcune addirittura di sinistra o partecipate da ex zapatisti, si prestano al gioco e provano a invadere le terre recuperate dalle ZLN. 4. L'istigazione di conflitti intracomunitari. Allo stesso modo, i dirigenti locali dei partiti politici e le autorità istituzionali nei paesi fanno di tutto per pressare i zapatisti e metterli contro il resto delle comunità non zapatista, scatenando conflitti indotti. Un classico esempio è quello di minacciare di tagliare a tutti i servizi di acqua o della luce, con la pressione degli enti federali preposti. Se non pagano anche gli zapatisti, i quali praticano l'autoriduzione totale delle tasse e delle bollette come forma di resistenza. Queste situazioni, che spesso trovano una soluzione condivisa nelle assemblee del villaggio, vengono polarizzate strumentalmente dalle autorità locali e dai funzionari del governo. 5. L'utilizzo massiccio di programmi sociali per disgregare il tessuto comunitario e promuovere la diserzione. Infatti, gli zapatisti rifiutano qualsiasi assistenza e servizio dallo Stato come forma di resistenza e per la costruzione di un'autonomia integrale delle popolazioni rurali e indigene. Il governo, quindi, provoca costantemente le famiglie zapatiste offrendo loro borse di studio, finanziamenti alla produzione agricola, assistenza sanitaria, case popolari e molti altri servizi, quasi tutti finanziati dal Banco Interamericano di Sviluppo e il Fondo Monetario Internazionale. Vale la pena sottolineare che questi servizi e questi crediti sono quasi solo programmi di facciata e non garantiscono in nessun modo un accesso ai diritti come l'educazione, la casa o la salute, anche perché disegnati in chiave coloniale e ai fini di urbanizzare la popolazione contadina legandola ai bisogni indotti e alle offerte del mercato. Coscienti che questi programmi sono quindi solo l'esca che nasconde l'amo, gli zapatisti rifiutano qualsiasi appoggio governativo o dei partiti. È ovvio che però la povertà, la pressione e la stanchezza possono rendere appetibili le offerte dello Stato che in fondo cerca solo di promuovere con una pioggia di risorse la diserzione dalle file delle ZLN. 6. Il silenzio della stampa o, eventualmente, la criminalizzazione mediatica. Nonostante una certa fortuna goduta dagli zapatisti nei media durante i primi anni dell'insurrezione, oggi nei mainstream lo zapatismo è quasi un tabù. In nessun periodico, salvo qualche colonna in qualche giornale di sinistra, si accenna appunto alla guerra combinata di sfiancamento in corso in Chiapas. Nello stesso quotidiano che sporadicamente dà voce alle denunce della giunta di buon governo, La Jornada, il governo statale chiapaneco compra pagine intere dove pubblica articoli a più colonne che smentiscono le denunce zapatiste o, semplicemente, mostrano un Chiapas che progredisce nel nome dei diritti umani, dell'ecoturismo e dell'economia verde, tutti nuovi meccanismi di colonizzazione dei territori indigeni. Per tutti questi elementi che riunisce definiamo guerra combinata di sfiancamento una guerra sistemica, ossia una guerra che su molteplici livelli attacca uno stile di vita auto-organizzato in nome di un processo di civilizzazione criminale e in crisi, quello capitalista occidentale. Non vuole essere una definizione tanto grande quanto vaga, è proprio un etnocidio, una guerra studiata nei minimi particolari contro un esercito di ribelli, i zapatisti e le zapatiste. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Il ritorno del dinosauro PRI e le lotte che gli resistono. 23 maggio 2012. Decine di migliaia di giovani sfilano per le vie di Città del Messico in una manifestazione organizzata nelle università e senza il coinvolgimento diretto dei partiti politici contro l'eventuale imposizione alla Presidenza della Repubblica del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Apre il corteo lo spezzone dei contadini di San Salvador Atenco. 1 luglio 2012. Elezioni federali in Messico che definiscono la presidenza per il sessennio 2012-2018. Vince il candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. 22 e 23 settembre 2012. A Oaxaca, 1200 delegati di centinaia di collettivi, sindacati e organizzazioni sociali si riuniscono per la seconda convenzione nazionale contro l'imposizione, dopo una prima riunione nazionale realizzata a San Salvador Atenco in luglio. L'assemblea lancia l'assedio del Palazzo Presidenziale per il 1 di dicembre, giorno all'arrivo alla presidenza di Peña Nieto. In Messico c'è un partito che ha governato per 70 anni, appropriandosi e tradendo la rivoluzione di Zapata. Questo partito è il PRI, Partito della Rivoluzione Istituzionale. Questi assassini, con discorsi nazionalpopolari prima e neoliberisti poi, hanno governato ininterrottamente fino al 2000, quando hanno perso la presidenza della Repubblica a favore del PAN, partito della destra ultraliberista. Oggi, con un candidato imposto dai media come vincente già da mesi prima delle elezioni e con una rete di compravendita di voti capillare, questi mafiosi sono tornati a occupare tutte le poltrone istituzionali, dal livello locale a quello federale. Questo fatto per il Messico, che lotta, è qualcosa che non lascia indifferenti, una sorta di ritorno al passato, al dinosauro, come ha chiamato criticamente il PRI. Il 1 luglio, 17,5 milioni di messicani hanno quindi optato per Enrique Peña Nieto e questi voti, su una popolazione totale di 112 milioni di abitanti, sono stati sufficienti per dichiararlo legittimamente presidente. Così funziona la democrazia rappresentativa, visto che la fazione vincente è stata in realtà quella degli astenuti, il 37% del totale. Infatti, il discredito assoluto di tutti i partiti in Messico è già un luogo comune. Chi vota, solitamente, lo fa per interesse personale o perché comprende frustrato con un pugno di pesos o regali, salvo poi quegli elettori di sinistra che sperano ancora di frenare le destre votando il meno peggio. Il meno peggio della telenovela elettorale sarebbe AMLO, un 59enne che perse per una frode elettorale eclatante le presidenziali del 2006. Per la seconda volta torna a casa bastonato dal pragmatismo mafioso della destra e dei suoi alleati dell'oligopolio economico. Ma chi è questo Presidente della Repubblica che tanta indignazione ha provocato nelle università, nei movimenti, nella società civile? Enrique Peña Nieto ha 46 anni e una faccia d'attore da telenovela. È membro del gruppo Atlacomulco, un'alleanza informale di politici, mafiosi e imprenditori che controllano il PRI e quindi buona parte del paese. Enrique Peña Nieto è stato dal 2005 al 2011 governatore dello Stato di México, lo Stato attorno alla città del Messico, ed è quindi uno dei principali responsabili della violenta repressione del 3 e 4 maggio 2006 a San Salvador Atenco, dove un'organizzazione di contadini che difendeva le loro terre minacciate dalla costruzione del nuovo aeroporto della capitale venne attaccata da polizia, esercito e uomini armati del PRI. Negli scontri che seguirono morirono due giovani di 14 e 20 anni, Javier e Alexis. L'intera cittadina venne circondata e sequestrata dalla forza pubblica, 200 persone vennero arrestate e torturate, decine di donne vennero violentate. Il PRI non è nuovo a simili violente repressioni, nelle quali, oltre che alla forza pubblica, sono impiegati uomini armati alle dirette dipendenze del partito. È nota la repressione della comune di Oaxaca, con 27 morti nel 2006. Più recentemente, un altro esempio di governance priista, abbiamo assistito alla repressione degli studenti delle scuole magistrali rurali del Michoacán, ordinata dal governatore Fausto Vallejo, quando a ottobre di quest'anno centinaia di studenti stavano occupando i loro istituti e sono stati selvaggiamente picchiati, torturati e quindi sgomberati. Sono finiti in prigione 176 ragazzi e ragazze. Questa è l'ombra tenebrosa della politica pubblica del PRI che si proietta su tutto il paese. Per questo l'imposizione di Peña Nieto come presidente ha scatenato la reazione della società civile e soprattutto degli studenti. A maggio il candidato priista in campagna elettorale si presenta alla Ibero, un'università privata per la classe medio-alta, ma gli studenti lo cacciano al grido di Atenco, non si dimentica, assassino. Il fatto genera scalpore, visto che questa università è considerata di prestigio, in seno alle classi benestanti. La protesta coraggiosa e partecipatissima viene invece ridicolizzata dai media ufficiali e viene classificata come un'opera di un gruppuscolo di estranei. Per tutta risposta, gli studenti della Ibero montano rapidamente un videomessaggio con 131 persone con la sedola universitaria dell'istituto che dichiarano «Io c'ero, io l'ho fatto». Da lì i ragazzi passano a protestare sotto le installazioni di Televisa, la maggiore emittente televisiva privata, attirandosi la simpatia dei media di sinistra e in più in generale della gente. Nasce così il movimento Io Soy 132, il cui nome allude al fatto che ognuno di noi è il 132esimo ipotetico studente della Ibero che rifiuta come presidente l'assassino Peña Nieto. Lo scontento giovanile nell'università iberoamericana contro Enrique Peña Nieto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'ira studentesca. Il movimento Io Soy 132 è nato dalla indignazione degli studenti universitari di fronte alla manipolazione dell'informazione da parte dei mezzi di comunicazione, dalla pretesa del canale Televisa di imporre un candidato alla presidenza della Repubblica. Il movimento va però più in là di questo e pone il potere non regolato dalla mediocrazia come uno dei principali ostacoli alla democratizzazione del paese. Dalle prime mobilitazioni spontanee si è poi passato a manifestazioni oceaniche e alla costruzione di un'assemblea interuniversitaria con delegati di centinaia di facoltà sparse sul territorio nazionale, dove per la prima volta partecipano studenti di università pubbliche e di università private. Il riferimento di questi giovani è quello dei movimenti non violenti per la democrazia autentica, stile 15M di Madrid, Barcellona o della Grecia. Il movimento, infatti, sostiene la necessità di democratizzare e trasformare i mezzi di comunicazione sulla base della socializzazione degli stessi e lo sviluppo di un modello di mezzi di comunicazione pubblici, cambiare il modello educativo, scientifico e tecnologico, sostituire il modello economico neoliberale, trasformare il modello della sicurezza nazionale, ritirando le forze armate dai compiti di sicurezza pubblica, sviluppare e rafforzare la democrazia partecipativa nel prendere decisioni e nella costruzione di politiche pubbliche e lottare per per la piena attuazione del diritto alla salute. Fin dall'inizio c'è stata tensione tra due tendenze per definire il percorso del movimento. Da una parte il settore che puntava i suoi sforzi sulla congiuntura elettorale e che fondamentalmente dirigeva la sua critica sulla figura di Enrique Peña Nieto. Dall'altra parte la tendenza che persisteva nel fare una critica all'insieme del sistema politico e sulla necessità di andare al di là delle elezioni, di consolidare l'organizzazione e prepararsi ad una lotta di lungo periodo. Dopo le elezioni, il discorso contro l'imposizione di Peña Nieto ha guadagnato molta forza perché si è collegato all'Assemblea Nazionale e perché esprimeva la necessità di protestare di fronte alla vittoria di Peña Nieto e all'arretramento politico che ciò implica. Inoltre, il concetto è stato assunto da tutti poiché aveva una certa ambiguità. Per il settore preoccupato delle elezioni rifletteva l'imposizione di un candidato di un processo con irregolarità e ingiustizie molto gravi. Ma l'imposizione è anche intesa come base di un sistema politico che in maniera costante impone riforme strutturali e un modello economico disuguale ed escludente. Da lì questo movimento ha fatto da collante con altri attori delle lotte sociali, soprattutto con sindacati, organizzazioni marxiste-leniniste e una buona parte della società civile mobilitata nel Movimento per la Pace con Giustizia e Dignità, ossia con il Movimento delle Vittime della Guerra di Calderón, nato lo scorso anno. Si sono realizzate così due incontri, chiamate Convenzione Nazionale contro l'Imposizione, da cui sta prendendo vita un movimento articolato su scala nazionale. Nonostante alcuni gruppi dell'altra campagna partecipano in questo movimento, noi, come la maggior parte dei gruppi libertari e delle organizzazioni dello zapatismo civile, rimaniamo un po' a margine di tutti questi eventi. Ci sembra che tanti sforzi e tante buone intenzioni vanno a naufragare in un mare confuso tra rivendicazioni a sfondo elettorale e di riforme istituzionali, un mare fra l'altro tenuto dentro agli argini da un controllo indiretto del PRD e della sinistra istituzionale sul movimento, attraverso i sindacati e le grandi organizzazioni sociali affini al partito. Infine, ci sembra che l'agenda del movimento contro l'imposizione sia ancora una volta quella del potere e delle sue scadenze elettorali. In questo senso e in questo contesto, come molti altri compagni dell'altra campagna, preferiamo continuare a scavare le trincee nelle nostre lotte specifiche e non distrarci con il teatrino elettorale e post-elettorale. Le ZLN, del resto, ancora una volta, ha disdegnato le elezioni, non partecipando a favore di nessun contendente. Dalla sesta dichiarazione del 2006 in poi, la presa di posizione degli zapatisti è chiara: nessun dialogo con il potere e con i partiti politici, e a favore della costruzione di un'autonomia nei fatti, un vero contropotere che, in tempi di riaccomodo elettorale, è ancora più difficile da difendere contro le provocazioni di ogni tipo. Lontani dai riflettori, sia chiaro, non significa lontani dalle lotte, tutt'altro. Comunque, in termini più generali, non possiamo che rallegrarci di questo nuovo fermento di altri settori della società messicana. Per i tempi che si prospettano serve l'apporto belligerante e creativo di tutti e tutte. Aggiornamento sulla lotta contro l'imposizione del presidente Peña Nieto. Mentre preparavamo questa trasmissione, è entrato in carica formalmente l'odiato presidente del PRI. Sabato 1 dicembre, decine di migliaia di persone hanno invaso il centro di Città del Messico per protesta. Spezzoni, soprattutto gli anarchici, studenti e giovani di periferia, hanno provato a rompere fin dalle 7 del mattino la zona rossa, presidiata da migliaia di agenti. Ne sono seguiti feroci scontri, con la polizia che ha sparato centinaia di lacrimogeni all'altezza d'uomo e ha aperto il fuoco in varie occasioni. I manifestanti si sono difesi con sassi, molotov, tubi e barricate. Gli scontri sono proseguiti per 7 ore in tutto il centro storico. Alla fine della giornata del 1 dicembre si sono registrati 103 arresti e 105 feriti curati presso la Croce Rossa. Di questi, 4 sono gravissimi. Un 23enne rischia di perdere un occhio e il compagno Francisco Cui, noto attivista del movimento dell'altra campagna, è ancora in coma. Gli hanno sparato in testa. Ancora non si sa se è un proiettile o un lacrimogeno da distanza ravvicinata. Il cranio è sfondato e ne è fuoriuscita la massa cerebrale. Se Francisco riesce a sopravvivere, avrà lesioni permanenti e irreversibili. La furia della gente e la ferocia della polizia rappresentano un'immagine di quello che, probabilmente, sarà il Messico dei prossimi anni. Libertà per tutti i compagni e le compagne arrestate, solidarietà e affetto con il Cui e tutti i compagni feriti dai repressori. Thank you. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Oaxaca. Il caso di Álvaro Sebastián Ramírez e la lotta nella regione Loxica. Ottobre 2012. Nella città di Oaxaca, la rete contro la repressione e Croce Nera Anarchica danno inizio al secondo foro contro la prigionia politica e per la libertà di Álvaro Sebastián Ramírez, convocando nuovamente a riorganizzare le forze sociali per liberare i numerosi prigionieri politici in Messico. Álvaro Sebastián Ramírez è un indigeno zapoteco di 54 anni, dei quali 15 passati in carcere, dove è ancora rinchiuso. Álvaro fu arrestato il 15 dicembre del 1996 con l'accusa di essere guerrigliero. Lo prelevarono in una strada mentre era con la moglie e la figlia, lo portarono in una casa clandestina e lì lo torturarono per 6 giorni consecutivi. Lo obbligarono a stare tutto il tempo in piedi, legato e bendato. Gli versarono acqua gassata e peperoncino nelle narici. Gli attaccarono pinze con scariche elettriche ai genitali. Gli schiaffeggiarono le orecchie fino a farlo svenire. Gli raccontarono infine che stavano violentando sua moglie e la sua bambina di 3 anni nella stanza a fianco. Ci racconta Álvaro che ascoltava voci e pianti di donna per davvero, non potendo sapere, bendato, che erano di altra gente finita in mano alla polizia. Esausto, firmò 200 fogli in bianco che servirono per montare l'accusa. Terrorismo, cospirazione e omicidio. Álvaro, secondo le forze militari e di polizia, era comandante teacher dell'esercito popolare rivoluzionario. Lui ha sempre respinto l'accusa, ma non ha mai negato la partecipazione nelle lotte sociali della sua regione, la Loxica. Un impegno militante che ha rinnovato nel 2006, quando dalla trincea della sua cella firmò la 6ª dichiarazione della ZLN e divenne un prigioniero politico dell'altra campagna. Oggi Álvaro ha vinto un ricorso per il quale gli devono dettare nuovamente la sentenza. Ci sono buone probabilità che questa sia inferiore ai 29 anni della sentenza precedente. Avendo già compiuto praticamente 16 anni di condanna, potrebbe uscire con i benefici della buona condotta, grazie anche alla pressione del movimento. Ma che è successo nella regione Loxica? Perché tanto accanimento contro Álvaro Sebastián Ramírez? La regione Loxica, situata tra i monti occidentali di Oaxaca, andando verso la costa, è ancora oggi tra le più povere del Messico, con un alto tasso di disoccupazione, mortalità infantile e assenza di servizi. Questa zona è stata storicamente controllata dalle guardie bianche al servizio dei latifondisti. Negli anni Ottanta Álvaro e altri coraggiosi cominciarono a organizzare clandestinamente la gente per riuscire a ottenere più terra e diritti. Questa lotta non fu priva di imboscate, arresti e tentativi di omicidio contro i compagni più in vista. Álvaro era un maestro e si dedicò a organizzare la resistenza dei villaggi zapotechi. Il 28 giugno del 1995, un anno dopo l'insurrezione zapatista nel vicino Chiapas, a Agua Blancas, nel vicino stato di Guerrero, la polizia fermò in un blocco stradale un furgone con numerosi contadini che si dirigevano a un corteo. All'improvviso, e a sangue freddo, le forze dell'ordine aprirono il fuoco sulla camionetta e fecero una strage. 17 contadini, disarmati, vennero massacrati dalle raffiche. Addirittura un video, oggi scaricabile su YouTube, testimonia la follia della mattanza. Fu la goccia che fece traboccare il vaso e nei villaggi ci fu chi decise di unirsi al neonato esercito popolare rivoluzionario che fece la sua prima apparizione pubblica proprio nel primo anniversario del massacro di Agua Blancas, l'EPER. Così la sua sigla è una classica guerriglia marxista-leninista che vanta varie colonne sul territorio nazionale e un comitato centrale. Dalle PRE si staccherà successivamente l'ERP, Esercito Rivoluzionario del Popolo Insorgente, che passerà a operare soprattutto nello stato di Guerrero. Il 29 agosto del 1996 l'EPR attacca simultaneamente le caserme della Marina Militare, della Polizia Statale e Municipale del paese di Huatulco, sulla costa di Oaxaca. Il saldo fu di 22 morti, 11 militari e 11 guerriglieri. Questo atto di belligeranza comportò una militarizzazione massiccia delle montagne circostanti, a Huatulco, la Loxica, la regione di Álvaro. L'esercito non si limitò solo a pattugliare, ma piuttosto a seminare terrore. In tutta la regione, nei mesi successivi, furono arrestate più di 250 persone, con la sempre triste sequela di interi villaggi saccheggiati e donne violentate. Fu un'invasione armata che schiacciò ogni fuoco di organizzazione comunitaria e, colta l'occasione, sbatté in galera tutti i leader o presunti tali dei villaggi nemici dei latifondisti. Così ci racconta di quei giorni un dossier sulla Lossiccia a cura del collettivo di informazione internazionale, INFIT. Il 26 settembre fu effettuata una prima incursione dell'esercito che colse di sorpresa Lossiccia. Almeno 600 effettivi dell'esercito e della polizia giudiziaria assaltarono San Agustin. Tutte le autorità municipali furono catturate. Nei giorni e mesi successivi, detenzioni massive contro le differenti comunità portarono ad arrestare più di 250 persone. Alla base non c'era nessun ordine di detenzione firmato da giudici o frutto di un'indagine. Per cadere in mano della giustizia fu sufficiente essere segnalato dagli entregadores, i ritiratori. Le guardias blancas, dei latifondisti, precedentemente allontanati dalla regione, indossato un cappuccio bianco, accompagnano i militari, segnalando come colpevoli tutti gli appartenenti alle varie organizzazioni sociali. Il prezzo pagato per ogni ritirato varia tra i 200 e i 500 pesos, 12 o 30 euro. Chiaramente, qualunque uomo o ragazzo, arrivarono ad arrestare addirittura 14enni, può trasformarsi in bersaglio e fonte di guadagno. Le prove si costruiscono dopo, con la tortura sistematica dei prigionieri, obbligandoli a firmare fogli in bianco, poi compilati a piacere o confessioni prescritte d'appartenenza al gruppo armato. Il fatto che la maggior parte dei reo confessi parli solo il zapoteco e sia analfabeta e che le dichiarazioni siano in perfetto castigliano non insospettisce i giudici. Secondo il dossier di Centri dei Diritti Umani, che con interviste ai prigionieri e raccolta di dati documenta le torture che hanno sofferto, viene utilizzato principalmente il pestaggio, la privazione di alimenti per giorni, le scariche elettriche a mani e testicoli, l'asfissia con acqua o per strangolamento. Almeno 40 sono coloro che non sopravvissero alle torture o furono assassinati con esecuzioni sommarie. La ferocia non ha avuto limiti, castrazioni e smembramenti di fronte ai parenti, violenze sessuali e umiliazioni. Per questo Alvaro, ancora oggi, paga il coraggio di essersi ribellato contro i ricchi e i mafiosi della sua zona. Non importa se fu o meno guerrigliero, questo non interessa né allo Stato né a noi. Le ragioni per cui lo difendiamo sono le stesse per cui il potere lo tiene in gabbia. Per essersi ribellato allo sfruttamento dei ricchi, in maniera organizzata e al lato della sua gente. Ci uniamo quindi alla campagna internazionale che esige libertà immediata per Alvaro Sebastian Ramírez. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. Verdad contigo, puro bla bla bla, mentira sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Estamos armando el poder caracol, escúchalo como Míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz. Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Guerrero, il contropotere della polizia comunitaria. 28 agosto 2012. La polizia governativa di San Luis Acatlán ha arrestato Maximino Tranquillino Santiago, membro e coordinatore della Casa di Giustizia della Polizia Comunitaria. Poco dopo, l'Assemblea regionale, autorità massima dei villaggi, ha ordinato ai suoi poliziotti comunitari di arrestare il giudice del carcere, il pubblico ministero di San Luis Acatlán e altri tre funzionari. Massima tensione in tutta la regione. La polizia comunitaria, nonostante un nome che non suona amichevole dalle nostre parti, è in realtà una delle esperienze autonome più notevoli del Messico, in quanto a sistema di amministrazione della giustizia comunitaria. È un corpo di autodifesa permanente, composto da circa 800 uomini di più di 80 comunità della Costa Chica e della Montagna di Guerrero, uno stato del sud del Messico. Questo corpo armato delle comunità sono persone elette di anno in anno nelle assemblee e prestano il loro servizio facendosi carico della sicurezza della regione in maniera totalmente gratuita. Da 17 anni questo corpo, controllato dalle assemblee dei villaggi e da un'assemblea generale regionale, si occupa anche di impartire la giustizia senza ricorrere ai tribunali e al sistema penitenziario di Stato. I colpevoli dei vari delitti sono giudicati dall'assemblea del proprio villaggio in presenza dei propri familiari e quelli della vittima, e il castigo non è mai scontato con il carcere, ma piuttosto con lavori comunitari, con la riparazione del danno e sempre accompagnato da riunioni con gli anziani del villaggio. Dal nostro punto di vista pensiamo che il lavoro svolto dalla Polizia Comunitaria e dal suo coordinamento regionale di autorità comunitarie, CRAC, è molto interessante e per certi versi pioniere, anche se ovviamente non rappresenta una formula definitiva e senza contraddizioni sulla questione della sicurezza sociale. È comunque un esperimento dal basso che la gente pratica pur di non delegare la spinosa questione della sicurezza e della giustizia allo Stato. Una pratica autogestita, assembleare e non remunerata per affrontare oggi e immediatamente un tema delicato, però importante. Per inquadrare meglio il contesto c'è da dire che il territorio controllato dalla polizia comunitaria è un territorio indigeno, vicino alle guerriglie storiche degli anni 70, ereditando da queste una cultura politica anche istituzionale e una certa capacità organizzativa di massa che si è spostata con le pratiche assembleari indigene e contadine. Nelle zone omicidi, stupri e furti sono diminuiti del 90%. Ma che è successo a fine agosto? Niente di più ovvio, una provocazione, dato che lo Stato, che non riconosce formalmente la polizia comunitaria, cerca sottobanco di creare conflitti con la giustizia autonoma e rompere così il precario equilibrio di convivenza fra polizia comunitaria e quella ufficiale e governativa. Il coordinatore Maximino Tranquillino è stato accusato di aver privato della libertà un certo Silvino Gabino, abitante della comunità di Yoloxochi, che si trova detenuto e in percorso rieducativo del sistema comunitario per aver assassinato un vicino della sua stessa comunità. Ossia, i lavori comunitari imposti dalla giustizia comunitaria sono interpretati dalla giustizia di Stato come sequestro e l'assassino diventa quindi vittima. Partendo da questa denuncia, il giudice firmò degli ordini di arresto contro vari compagni e il 28 di agosto la polizia governativa ha arrestato Maximino Tranquillino Santiago. In risposta, la polizia comunitaria ha ordinato l'arresto del Ministero Pubblico, del giudice e di altri tre funzionari. Il giudice ha anche tentato di difendersi con una pistola, ma è stato disarmato a tempo. I cinque burocrati sono stati processati davanti a un'assemblea di 500 persone e sono stati rilasciati solo quando lo stesso giudice ha firmato la scarcerazione immediata di Maximino Tranquillino, il quale ha approfittato dell'assemblea e della presenza dei suoi aguzzini per denunciare la corruzione del sistema giudiziario di Stato e le pessime condizioni carcerarie. La situazione rimane molto tesa, si aspettano altre provocazioni da parte del governo. In ogni caso, l'arresto e il processo popolare di un giudice e di un ministero pubblico rappresentano un notevole passo in avanti nelle relazioni di forza dei compagni verso lo Stato. Dal nostro punto di vista, un vero esempio di contropotere dal basso. Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. Ehi famiglia, danzon dedicato al EZLN. Aggiornamenti sui prigionieri politici. 19 giugno 2012, giornata internazionale di mobilitazione contro la prigionia politica, in occasione del 12° anniversario della detenzione di Alberto Patistán. Dal Messico a Gaza si registrano decine di proteste. 27 luglio 2012, dopo 9 mesi nel carcere di massima sicurezza in Sinaloa, torna in Chiapas il prigioniero politico Alberto Patistán, adesso detenuto nuovamente nel carcere di San Cristóbal. 25 settembre 2012, diagnosticano un tumore cerebrale a Alberto Patistán, il quale ha perso l'80% della vista. La diagnosi arriva dopo 3 anni di denunce e proteste inascoltate dal prigioniero. Mumia Abu-Jamal, storico prigioniero politico degli Stati Uniti, si solidarizza pubblicamente con Alberto. Ormai il caso di Alberto Patistán è noto. Si tratta di un maestro indigeno di lingua Tzotzil, arrestato nel 2000 con la falsa accusa di aver assassinato in un'imboscata 6 poliziotti. Il montaggio e l'arresto in realtà si devono all'ostinata opposizione che Alberto capitanava contro l'allora sindaco del suo paese e il bosque in Chiapas. Patistán diviene suo malgrado una delle centinaia di vittime della repressione politica in Messico, ma il suo caso risulta emblematico per la tenacia con cui affronta la detenzione. Alberto diventa un agitatore di coscienza e un organizzatore di detenuti. In ogni carcere in cui viene rinchiuso fonda un collettivo, un gruppo di prigionieri che si politicizzano ed entrano così nel circuito delle lotte in prigione, organizzando gruppi di studio e diffondendo, con l'appoggio dei solidali, denunce delle difficili condizioni di detenzione e sulle violazioni dei diritti umani del carcerato. Nel 2008 Alberto lancia uno sciopero della fame di 42 giorni che obbligherà il governo a liberare più di 100 indigeni incarcerati. Molti compagni escono, meno lui, per castigo. Nel 2011 un altro collettivo di prigionieri con Alberto presente lancia un nuovo sciopero della fame che durerà 39 giorni e che darà la libertà ad altri 4 detenuti. Patistán pagherà con un suo trasferimento immediato a 2200 chilometri nel carcere di massima sicurezza di Guasave, Sinaloa, accusato di essere il perenne sobillatore. Questo ennesimo abuso si trasforma in boomerang per il governo. In tutto il Messico e poi in molte parti del mondo, centinaia di organizzazioni si mobilitano per esigere la libertà di Alberto e quella di Francisco Santis, membro delle ZLN, da quasi un anno in carcere. Entrambi i casi acquisiscono fama internazionale. A fine luglio il governo rispedirà Alberto al carcere di San Cristóbal. Leggiamo una parte del comunicato della rete contro la repressione del Chiapas, aderente al movimento dell'Altra Campagna. Lo stesso movimento di Alberto. Dopo 9 mesi, il professore e compagno Alberto Patistán torna a condividere la cella, i pasti, le riunioni, le iniziative, l'allegria, i sogni e le speranze di libertà con i suoi compagni di lotta, fra i quali Francisco Santis López, base di appoggio delle ZLN. Finalmente la sua famiglia non dovrà più percorrere 2200 chilometri per visitarlo. Finalmente Anche noi torneremo ad abbracciarlo e ad ascoltare le sue parole sagge e incoraggianti. È una vittoria a metà, perché Alberto non doveva essere punito con questo trasferimento forzato, orchestrato dal governo messicano su richiesta del segretario del governo di Chiapas, Noé Castagnon. Inoltre, Alberto non deve stare dietro le sbarre, è un maestro elementare e un attivista sociale legato alla sua comunità Tzotzil, El Bosque. Là lo stanno aspettando, lo esigono, lo esigiamo. Per questo il ritorno in Chiapas del prof. Alberto è il risultato di uno sforzo coordinato e globale, dai familiari, ai compagni e compagne di molti angoli del pianeta, da diversi gruppi anarchici ed organismi di difesa dei diritti umani del Messico e non solo, includendo tutte le organizzazioni dell'altra campagna. Dal suo villaggio natale, nella montagna ai quartieri della metropoli di New York, per arrivare simbolicamente in Palestina. Questo dimostra che la giustizia si tesse, si esercita e persino si impone a chi comanda con la lotta dal basso. Lo vogliamo ringraziare con il cuore in mano e con un po' di commozione a tutte le persone che si sono unite alla campagna per la liberazione del prof. Patistan e degli altri prigionieri politici. Con la nostra partecipazione abbiamo distrutto un pezzetto di carcere. La lotta continua. Alberto e i nostri compagni e le nostre compagne indigeni sono ancora imprigionati nelle carceri in Chiapas e per questo dobbiamo continuare ad organizzarci e coordinarci come abbiamo fatto finora. Ancora una volta gridiamo libertà immediata per Alberto Patistán Gómez, Voz de la Madre, Rosario Díaz Méndez, Voz de la Madre, Francisco Santis López, membro delle ZLN, Pedro López Jiménez, solidario della Voz de la Madre, Alfredo López Jiménez, solidario della Voz de la Madre, Rosa López Díaz, solidaria della Voz de la Madre, Juan Collazo Jiménez, solidario della Voz de la Madre, Alejandro Díaz Santis, solidario della Voz de la Madre, Enrique Gómez Hernández, solidario della Voz de la Madre, Juan Díaz López, solidario della Voz de la Madre, Antonio Estrada Estrada, San Sebastián Bachajón, Miguel Vázquez de Ara, San Sebastián Bachajón, Manuel de Mesa Jiménez, San Sebastián Bachajón, e per tutti e tutte le prigioniere e i prigionieri politici del Messico e del mondo, abbattere i muri delle prigioni. Ma il caso di Alberto poi si evolve drammaticamente. Il 25 settembre del 2012, in una lettera pubblica, Patistán ci informa che ha un tumore cerebrale. 3 anni di denunce inascoltate e questo è il risultato. Alberto ha perso l'80% della vista. Lo torturano così. È una scelta cinica e studiata, visto che Patistán è rimasto nel 2010 6 mesi ammanettato in un letto di un ospedale pubblico, dove non hanno voluto diagnosticargli quello che aveva. Tortura, come nel caso di Alfredo López Jiménez, che oggi ha bisogno di operarsi ai testicoli per le conseguenze delle scosse elettriche nei genitali inflitte durante l'arresto. Come nel caso di Rosas López Díaz, che esattamente un anno fa ha perso un figlio di 4 anni, nato con paralisi cerebrale per le torture ricevute al 4° mese di gravidanza. Tutti i prigionieri politici denunciano costantemente la mala sanità dell'istituto penitenziario, per cui possiamo dedurre che questa non è solo negligenza medica, quanto piuttosto una tortura, un castigo che corre parallelo alla detenzione, una forma per sottomettere e fiaccare i corpi dei carcerati. Ma ancora una volta la spinta del movimento, eterogeneo ma deciso, e l'incredibile determinazione dei prigionieri politici è riuscita a fare di disgrazia virtù. Infatti il caso di Alberto e a catena gli altri casi dei prigionieri politici hanno rotto il silenzio dei media ufficiali, riuscendo a raggiungere i notiziari e i quotidiani nazionali. Questa pressione ha permesso l'operazione urgente per il tumore di Alberto nei migliori istituti oncologici della capitale, fra gli inevitabili e eccessivi dispiegamenti di polizia. Oggi Alberto sta un po' meglio. Inoltre, approfittando della notorietà che sta acquistando il caso, il Centro di Diritti Umani, Fraiba, ha portato il processo di Patistán alla Suprema Corte della Nazione, istanza massima di giustizia in Messico. Questo significa che dopo 12 anni di carcere per Alberto esiste la reale possibilità di una sentenza che annulli 60 anni, ammollati da un tribunale del Chiapas. Ovviamente non confidiamo nella bontà dei giudici della Suprema Corte, quanto nella capacità dei prigionieri politici stessi e dei movimenti di agitare le acque e posizionare la questione nei giusti termini, innalzando a dismisura il costo politico delle continue detenzioni di Alberto. La possibilità di scarcerarlo non è solo un sogno romantico, come insegna la storia recente delle lotte per la libertà dei prigionieri politici in Messico, dove i movimenti sono stati capaci di scarcerare decine di compagni per riportarli alle loro famiglie, alle loro battaglie. I prossimi mesi saranno quindi decisivi e carichi di mobilitazioni. Presos politicos. Libertà! Hey!